cose perse, lo sai, sono un campione. Se questo nostro amore avesse già un finale, probabilmente adesso bestemmierei il tuo nome. Ma se tutte le paure che nel mondo fanno male scivolassero davvero dalle mie spalle altrove, forse l'ultima notte che abbiamo, sai, io con tutte altre la cambierei, perché solo nel perdono cambia un uomo. Sono soltanto specchi, non siamo così vecchi. Colpa dei miei difetti che han sbiadito i tuoi riflessi. Ma tu ancora, mentre volo tu sbadigli, ridi mentre penso a quali nomi darei ai nostri figli. Vedi, potremmo essere questi, però invece ancora scherzi. Forse l'ultima notte che abbiamo, sai, io con tutte altre la cambierei, perché solo nel perdono cambia un uomo. Forse l'ultima frase che canto, sai, a strapparmi la gola non soffrirei, perché solo nel frastuono cambia un uomo. Mi chiedi adesso d'essere sincero, io sono questo e non ne vado fiero. Dimmi di riprovare, ma non di rinunciare. Mi chiedi adesso d'essere sincero, io sono questo e non ne vado fiero. Dimmi di riprovare, ma non di rinunciare. Forse